Procediamo nello studio della Mishnah, capitolo primo del trattato Rosh Hashanah, seconda Mishnah. Come ho già anticipato nella precedente lezione, le prime due Mishnayot di questo capitolo fungono un po' da introduzione al concetto in generale dei vari Rosh Hashanah, vari Rashei Hashanah, diciamo così, che cadono nel corso dell'anno, che ricorrono nel corso dell'anno. E in questa seconda Mishnah si farà anche una, diciamo, non introduzione, ma sarà un po' una cosa generale riguardo al giudizio divino su ciò che accade nel mondo. E poi solo dalla terza Mishnah, la prossima, si entrerà nello specifico di un tema particolarmente centrale in questo trattato, come dicevamo l'altra volta, che è quello del Kiddush HaChodesh, quello della santificazione dei mesi, e entreremo già più nello specifico di questa mitzvah dalla prossima Mishnah. In questa Mishnah studiamo la seguente cosa: Be'arba'a perakim ha'olam nidon. In quattro momenti dell'anno il mondo viene giudicato per cose diverse, per contesti diversi. Abbiamo visto nella prima Mishnah che ci sono quattro momenti in cui si considera un Rosh Hashanah per delle cose particolari, specifiche. Qui vediamo che esistono dei momenti in cui il mondo viene giudicato, non necessariamente combaciano queste quattro con le quattro esposte nella Mishnah precedente. Quindi sembra che siano concetti legati fino a un certo punto, ma non così strettamente. Vediamo di cosa si tratta. Be'arba perakim ha'olam nidon. E la Mishnah entra subito nello specifico. Primo, Ba Pesach, il periodo di Pesach, anzi proprio il periodo della festa di Pesach, è un momento in cui viene giudicata al Hatevua, viene giudicato il prodotto, si intende il prodotto dei cereali per l'anno. E quindi cos'è il giudizio? Il giudizio è che HaKadosh Baruch Hu decide se sarà un prodotto abbondante o meno, eccetera. Questo è il periodo in cui in Eretz Israel i cereali iniziano a maturare, quindi è il periodo adatto per questo. Va Atzeret, nel momento di Atzeret, chissà cos'è Atzeret? Non è Shemini Atzeret? È la festa di Shavuot. La festa di Shavuot nella Torah viene anche chiamata Atzeret. È vero che anche Shemini, il giorno ottavo che segue la festa di Sukkot, è anche chiamato Atzeret. Normalmente Atzeret è un riferimento a Shavuot. Allora, Ba Atzeret. Atzeret letteralmente, ci sono diverse spiegazioni. No? Eretz è terra. Atzeret è fermo. Il Moed in generale si chiama anche Atzeret perché ci si ferma dalla Melachah. Okay. Questo è il senso più semplice. Okay. Ba Atzeret, durante Shavuot, Gamit Kansut, è vero, ci sono diverse spiegazioni, anche raduno. In ogni caso, vero, e anche raduno. Ba Atzeret, durante la festa di Shavuot, al Perot Ha'ilan, c'è il giudizio per ciò che riguarda la frutta degli alberi, se saranno abbondanti, eccetera. Questo è il periodo in Eretz Israel in cui iniziano ad uscire fuori i primi frutti dell'albero. Per Rosh Hashanah, quello che noi chiamiamo Rosh Hashanah, cioè il primo di Tishri, Kol ba'ei ha'olam ovrin lefanav, c'è un giudizio relativo alla popolazione del mondo. Kol ba'ei ha'olam significa tutti coloro che vengono al mondo, cioè in altre parole tutti gli esseri umani viventi, passano da, la Mishnah usa un linguaggio particolare, passano dinanzi a lui, come uno ha l'idea di una fila che passa davanti a qualcuno, a un giudice che decide la sorte. E infatti la Mishnah usa una metafora e dice Kivnei Maron. Tutti passano davanti ad HaKadosh Baruch Hu come Bnei Maron. Cosa sono Bnei Maron? Nella Gemara ci sono tre spiegazioni. Il senso più semplice è come delle pecore che passano davanti al pastore. Perché le pecore devono passare davanti al pastore una per una? Se vi ricordate, abbiamo studiato nella Mishnah precedente riguardo il Maasar Behema, e la decima che si prende dall'animale, che bisogna contare, che passano attraverso una stretta apertura dall'ovile per uscire e vengono contate, una, due, terza, quarta, e la decima che esce è designata quale Maser, decima che va donata appunto tra le varie decime e cose che si devono devolvere. E quindi il senso più semplice è che come questo tipo di passaggio, anche il passaggio di ogni persona davanti ad HaKadosh Baruch Hu nel momento in cui viene giudicato Rosh Hashanah. Nella Gemara ci sono altre due spiegazioni su cosa significa Kivnei Meron. Una è che è semplicemente il nome di un luogo che alcuni associano con Meron, che è il monte Meron, non lontano da Tzfat. Quindi è un riferimento a dei stretti sentieri dove si può passare solo uno per uno. Quindi lo stesso concetto, ma in un altro tipo di contesto. Oppure si tratta di Kivnei Meron, la terza spiegazione nel Gemara, che Chayalei Bet David, cioè significa come un esercito che passa uno per uno, è un riferimento all'esercito della casa di Davide, ma in ogni caso, secondo tutte le opinioni, il concetto è sempre quello, e cioè che ognuno viene fatto passare, o viene fatta passare la sorte, diciamo così, di ognuno, davanti ad HaKadosh Baruch Hu per ciò che riguarda il suo giudizio nel giorno di, appunto, Rosh Hashanah. E ora la Gemara porta un appoggio testuale dalle parole del Teilim. Vuoi fare una domanda? Dopo. Sheneemar, come detto, Hayotzer Yachad Libam Hamevin El Kol Maasehem. Hayotzer, colui che crea, che forma insieme i loro cuori, cioè l'identità di ognuno, Hamevin è colui che comprende, ha una conoscenza, El Kol Maasehem, di tutte le loro azioni. Cioè HaKadosh Baruch Hu vede e può comprendere, può capire, può vedere il cuore, cioè il pensiero di ognuno che viene al mondo, e giudica ognuno secondo la sua, secondo le sue azioni, secondo i suoi meriti e così via. Quindi non il suo cuore, solo le sue azioni. Il cuore si intende il pensiero della persona. Okay. Quindi anche quello conta. Assolutamente, certo. Ok. Ci sono diverse spiegazioni su come si lega questo versetto all'idea di passare uno per uno, perché il versetto sembra includere tutti insieme. Yachad, colui che crea tutto insieme, tutti quanti, e vede in un'unica visione, diciamo così, con un'unica veduta può vedere tutto. Invece la Mishnah parlava prima di una cosa più individuale, che va uno per uno. I maestri spiegano, i commentatori ne approfondiscono, per esempio uno dei grandi commentatori della Gemara, il Marsha, spiega che entrambe le cose sono vere per HaKadosh Baruch Hu, cioè lui può vedere uno per uno come se passassero davanti a lui in una fila appunto indiana, uno per uno, però lo può fare nello stesso momento, chiaramente, quindi è un po' insieme delle due cose. Il quarto momento in cui viene giudicato il mondo, Uva Chag, cosa è il Chag? Chi si ricorda? È Sukkot. Sukkot, esattamente, vi ricordate che Chag per eccellenza è Sukkot. Il momento di Sukkot è il momento in cui il mondo viene giudicato per quale cosa? Nidonin al Hammaim. Si è giudicati per ciò che riguarda l'acqua, e cioè soprattutto le piogge, le quantità, le qualità, perché non sempre la pioggia è nel momento giusto, o anche se fosse abbondante, a volte troppo, e quindi tutto ciò che riguarda la pioggia. E l'acqua. In senso effettivo letterale, non la pioggia come abbondanza parnassà o cosa. No, proprio l'acqua. Come... Sì, che chiaramente sì. Poi si lega alla parnassà, sì. Certo, però. Sì. Quest'anno abbiamo pregato bene a Roma, dici. Ok. Anche la neve c'è stata. Poi voglio vedere chi era. La Gemara dice, la Gemara lega le korbanot, le offerte di questi momenti dell'anno che abbiamo indicato, a questi giudizi che appunto abbiamo legato nella Mishnah a quei momenti. Per esempio, come avete detto, l'Omer, il Korban Omer, cioè l'offerta della misura di orzo che si porta a Pesach, è legato al momento del giudizio per i prodotti dei cereali. Ok? I due pani che vengono offerti a Shavuot sono legati, come abbiamo detto, che si giudica Shavuot la frutta dell'albero. E le libagioni d'acqua a Sukkot, bravissimo, perché questo è il momento del giudizio della pioggia. Una domanda che viene posta, da uno dei grandi maestri dei Rishonim, dei primi commentatori del Talmud, Rabbeinu Nissim di Girona, o Girona, in Spagna. Scusa, se l'uomo è giudicato a Rosh Hashanah, no? Allora questo significa che viene giudicato per tutta la sua esistenza, tutto ciò che è incluso nella sua esperienza di vita, quindi il suo prodotto, la sua acqua e tutto ciò che riguarda la sua parnassà, e se è già giudicato nel momento di Rosh Hashanah, allora che cosa servono gli altri momenti di giudizio? No? Ecco, vedo che siete d'accordo con questa contestazione, tra virgolette, ma non è una contestazione, è un tentativo di approfondire. Le domande sono queste. E lui spiega che bisogna dividere i due contesti. In che senso? Le cose che noi abbiamo detto, che nella Mishnah veniamo giudicati, non veniamo, ma vengono, l'obiettivo, il soggetto del giudizio a Pesach sono i cereali, ok? A Rosh Hashanah il soggetto sei tu, sono io. Quanto ne usufruirò io di quello che è stato deciso riguardo i cereali, di quello che è stato deciso riguardo le acque, di quello che è stato deciso riguardo la frutta e tutto il resto, gli animali e tutto ciò che esiste nel mondo. Quindi cambia il soggetto del giudizio. Può darsi che a Pesach i cereali hanno ricevuto, tra virgolette, un giudizio positivo, e cioè ci sarà una grande abbondanza di cereali, ma magari una persona specifica che viene giudicata a Rosh Hashanah non viene attribuito a lui una berachà nei cereali. Può darsi che questa berachà sarà di altri, o sarà una berachà soggettiva ai cereali stessi, ma forse, per esempio, abbiamo un problema moderno di quantità sufficiente, ma di distribuzione praticamente fallita, diciamo così, per usare una parola un po' estrema. Pessima. No? Pessima sicuramente, quindi abbiamo le quantità di cibo a livello globale per sfamare tutta l'intera popolazione umana del mondo, ma di fatto ancora oggi ci sono persone che davvero muoiono di fame. Qual è il problema? Uno dei problemi maggiori è la distribuzione. Allora vuol dire, la berachà nel frutto c'era, ma forse alcune persone non hanno meritato, chissà perché, di usufruire di quella berachà. Per questo Rabbeinu Nissim spiega, sono nella Mishnah considerate due binari diversi, se vogliamo. Prego. Mi sono bloccato il cervello, perché se andiamo a vedere, sì, è tutto rapportato comunque all'uomo, perché se tu, come fa a dire che Hakadosh Baruch Hu giudica i cereali, giudica la frutta? Un giudizio viene perché tu c'hai un libero arbitrio come l'essere umano. Se io sbaglio nel mio comportamento, allora sono soggetto a essere giudicato. Ma un cereale o un animale che non hanno libero arbitrio cresce e basta, espleta la sua funzione, okay, nella crescita. Quindi perché devo giudicare qualcosa che è ovvio che se tu dici che giudichi, sì, quello influisce la mia vita come dell'essere umano? Allora, questa è una buona osservazione. Leonardo dice, se è un giudizio significa tu devi essere o meritevole o non meritevole, e come possiamo dire del grano che sia meritevole o meno? Cioè, quindi se questo è il significato di giudizio, allora tutto si rapporta all'uomo, giustamente. Certo. In realtà, però, non credo che sia questo il significato di giudizio in questo contesto nella Mishnah. Cioè, quando noi diciamo che viene giudicata la quantità o la qualità del prodotto agricolo, non è che viene posto il prodotto agricolo davanti ad una corte che dice tu meriti o non meriti. Non è questo il senso di giudizio. Qui è più decisione di Hakadosh Baruch Hu di come sarà l'andamento del mondo. Certo, può essere riportato o meno al comportamento dell'uomo, ma è comunque, viene considerata comunque una cosa a sé stante, fino a un certo punto. Non che viene giudicato letteralmente il grano, giustamente, ma che viene fatta una decisione riguardo a quel prodotto, riguardo a quell'andamento del mondo. Poi il giudizio, quando entriamo nel contesto di Rosh Hashanah, quello di Tishri e l'uomo, allora lì lo leghiamo sicuramente più al comportamento, e per questo motivo, come diceva anche Rabbeinu Nissim, Iran, sono due cose diverse, perché il comportamento dell'uomo potrebbe essere non idoneo per meritare quella magari abbondanza che è stata decisa per il prodotto agricolo, per dire. Allora forse c'è una convergenza o meno tra queste due cose, di conseguenza sono considerati fino a un certo punto dei binari diversi. È chiaro che comunque è vero anche quello che dice Leonardo, alla fin fine, almeno per ciò che riguarda noi lo vediamo usando gli occhi e gli occhiali di un essere umano, quindi per noi è tutto relativo a questo, però magari le altre cose sono anche da vedere in un contesto più ampio. Ecco, magari come diceva Leo, riguardo gli animali, forse c'è un prodotto agricolo che viene, tra virgolette, giudicato in bene perché gli animali possono avere del cibo, ma magari quella persona che abita lì non lo merita e ci sarà un modo in cui non gli arriverà quel cibo, per dire, no? Ok, allora qui la Mishnah ha concluso la parte introduttiva della Maseche, del trattato di Rosh Hashanah, e ora nella terza Mishnah che adesso vediamo un po' per ciò che riguarda il Kiddush HaChodesh, la santificazione del mese. Ora, come spesso accade nella Mishnah e la Gemara, non andiamo direttamente, non iniziamo dalla prima pagina, anche se arriveremo alla prima pagina. La Mishnah inizia da quello che sembrerebbe essere un fatto secondario rispetto al Kiddush HaChodesh stesso. Perché quando parliamo di Kiddush HaChodesh vogliamo capire innanzitutto cos'è Kiddush HaChodesh, come avviene. Sappiamo che si basa sulla testimonianza di due testimoni validi, ma di questo ancora non iniziamo a parlare. Ora parleremo di un aspetto, ripeto, che sembra essere secondario, non è proprio secondario, ma non è diretto. Ora parliamo di come e quando viene comunicato il fatto che è stato santificato il mese. Per comunicato come si intende? È chiaro che nel momento in cui il Bet Din HaGadol, il Sinedrio, accetta la testimonianza e ufficialmente santifica, fa il Kiddush HaChodesh, è chiaro che diventa Rosh Chodesh e viene comunicato e annunciato a tutti quanti, oggi è Rosh Chodesh. Però, cosa accade per ciò che riguarda le persone distanti da quel luogo in cui è stato annunciato il Rosh Chodesh, che non deve essere per forza Gerusalemme, è il luogo in cui il Sanedrin siede, e su questo ci sono state varie vicissitudini, come viene comunicato agli altri? Allora vediamo quello che dice la nostra Mishnah. La Mishnah ci insegna che il Bet Din incaricava degli shlichim, dei messaggeri, degli agenti, per andare a comunicare ai luoghi distanti, sia in Eretz Israel che fuori, nelle comunità che erano già esistenti fuori da Eretz Israel, per comunicare in quale momento è stato fissato il Rosh Chodesh, qual era il giorno in cui è venuto Rosh Chodesh. Perché come ci ricordiamo, che credo che l'abbiamo spiegato nell'introduzione, ogni mese avrebbe la possibilità di durare 29 o 30 giorni, quindi non è automatico che tu sai, passano 30 giorni e scatta Rosh Chodesh, non è automatico, devi sapere quando era Rosh Chodesh. La Mishnah ci insegnerà che questi agenti non venivano inviati tutti i mesi, bensì solamente in 6 mesi dell'anno, e ora la Mishnah specifica quali e perché. Giorni. Solo i 30 giorni? Solo i mesi con 30 giorni? Quando si faceva il Kiddush HaChodesh secondo la visione, ogni mese poteva essere 29 a 30. Oggi che abbiamo il calendario fisso, giusto. Abbiamo 6, 30 giusto. E 6, 29, giusto. Ma non era così prima. Giusto. Quali sono i 6 mesi? Vediamo la Mishnah. Al Shisha Chodashim Hashluchim Yotzin. I Shluchim escono per 6 mesi per comunicare il fatto che è stato santificato il Kiddush HaChodesh, il mese. Primo, iniziamo dal primo mese che è Nisan. Al Nisan. Escono per comunicare il Rosh Chodesh di Nisan, Mipnei HaPesach, perché si possa sapere in che giorno preciso viene Pesach, per poter sapere da quando astenersi dal Chametz e così via. Dal momento in cui sappiamo quando è Pesach, quindi abbiamo i messaggeri che ci hanno portato, i Shluchim ci hanno portato dal Beit Din il Rosh Chodesh di Pesach, allora automaticamente sappiamo quando è Shavuot. Perché dal secondo giorno di Pesach contiamo 49 giorni, con il 50° giorno è Shavuot. Quindi non serve mandare un'altra volta nel secondo mese di Iyar, perché non dipende più dal mese di Iyar, dipende dai 50 giorni passati da Pesach. Ok? Allora escono per Pesach. Poi la prossima volta che escono, che vengono inviati i Shluchim, al Av, il mese di Av, Mipnei HaTa'anit, il Ta'anit, il digiuno di Tisha B'Av, che è un digiuno molto rigoroso, più, diciamo così, più rigoroso degli altri digiuni, ovviamente tolto Kippur, che è un'altra categoria, escono di nuovo i Shluchim del Beit Din per comunicare quando è stato Rosh Chodesh Av, in modo tale che tutti potessero fare Tisha B'Av nel giorno corretto. Poi al Elul i Shluchim vanno a comunicare quando è stato il Rosh Chodesh di Elul, il mese che precede Rosh Hashanah, perché proprio Mipnei Rosh Hashanah, proprio per sapere quando sarà Rosh Hashanah. Come si fa a sapere? Allora, innanzitutto Rosh Hashanah è il primo giorno del mese, quindi non c'è possibilità nello stesso giorno di comunicare quando è Rosh Chodesh per ciò che riguarda Rosh Hashanah. Però quello che si faceva per Rosh Hashanah è che dal momento in cui era Rosh Chodesh Elul si contavano 29 giorni e si faceva comunque Rosh Hashanah il 30° giorno. Perché? Teoricamente ogni mese potrebbe essere, come dicevo prima, sia di 29 che di 30, perché qui scatta una regola della maggioranza, della statistica praticamente, e i maestri dicono che dai tempi di Ezra, significa la costruzione del secondo Beit HaMikdash, dai tempi di Ezra non è mai stato trovato il mese di Elul Meubar, significa incinta, cioè 30 giorni invece di 29. Non è mai venuto fuori così. Di conseguenza si va secondo la regola della maggioranza, che si presume che il mese di Elul avrà solamente 29 giorni, e quindi è sufficiente sapere quando effettivamente è Rosh Chodesh Elul, contare 29 giorni e fare Rosh Hashanah il 30° giorno. Alcune opinioni, questo dice Rambam, alcune opinioni nei Rishonim, che sono scritti sui maestri di Tosafot nella Gemara, sui commenti della Gemara, sostengono che in realtà facevano già allora due giorni di Rosh Hashanah come facciamo oggi noi. Per questo dubbio, appunto, quindi sappiamo quando è Rosh Chodesh Elul perché lì vengono inviati, per Rosh Hashanah non c'è possibilità di inviare e quindi già dall'inizio o da un periodo molto antico già si facevano due giorni di Rosh Hashanah. Su questo si può approfondire perché addirittura anche nel Beit HaMikdash stesso ci sono situazioni dove si facevano due giorni di Rosh Hashanah, e questo però è un discorso per un'altra volta, torneremo a questo nel nostro trattato. Anche da uno? Generalmente era uno. La Torah dice un giorno di Rosh Hashanah. Il primo giorno del settimo mese. Primo giorno del settimo mese, sì. Però effettivamente Rosh Hashanah è due giorni per tutti. Sì. Anche in Eretz Israele due giorni. Ok. Poi, quindi abbiamo detto quanti mesi? Per Nisan, per Pesach. Av, per Tisha B'Av e Lul per Rosh Hashanah. La quarta cosa, al Tishri. Dopo Rosh Hashanah, quando già si sapeva esattamente, con certezza, non poggiandosi sulla statistica, ma con certezza che quando era effettivamente Rosh Chodesh e quindi Rosh Hashanah, escono i Shluchim del Beit Din per comunicare questo, per quale motivo? Perché la gente abbia la sicurezza di fare Kippur e Sukkot nel giorno giusto. Non possiamo dirgli di fare due giorni di Kippur. Tu stai parlando dei Shluchim che uscivano? I Shluchim uscivano dopo Rosh Hashanah a comunicare quando è stato l'ufficiale Rosh Chodesh di Rosh Hashanah, in modo tale che Kippur e Sukkot siano sicuri al 100% che lo facciano nel giorno giusto. Quindi trasgredivano il fatto di non poter viaggiare? Lo vedremo nella prossima Mishnah, non necessariamente, potremmo aspettare che esce Rosh Hashanah. Però comunque questo aspetto qui lo vedremo nella prossima Mishnah, proprio il seguente paragrafo parlerà di questo. Ora vediamo quindi qual è la prossima. Abbiamo detto al Tishri, Mipnei Takanata Moadot. Rosh Hashanah, anche se lo facevano appunto il 30 di Elul, comunque uscivano fuori i shluchim per comunicare quando è stato effettivamente, ufficialmente santificato il giorno, in modo tale che potessero sapere con sicurezza, ripeto, quando è Kippur e quando è Sukkot, e che nessuno pensi di sbagliare in queste due festività, in queste due ricorrenze. Ma chi è incaricato di stabilire questa cosa? Ora vedremo. È il Sinedrio, però, in base alla testimonianza di chi ha visto la nascita della nuova luna. Che fanno i calendari qua roba là. Aspetta, arriveremo a questo. Un momento. Al Kislev, allora, il quinto momento in cui escono gli shluchim del Bedin è per comunicare il Rosh Chodesh di Kislev, Mipnei Chanukah, perché si sappia quando è il 25° giorno, che è il primo giorno di Chanukah. Ovviamente questo da un certo momento in poi nella storia. Quando Ve'al Adar, e ugualmente anche per il mese di Adar, uscivano i shluchim, venivano inviati, Mipnei HaPurim, perché si possa festeggiare Purim nel giorno giusto. La Mishnah aggiunge, Ukeshehaya Beit HaMikdash Kayam, quando esisteva il Beit HaMikdash, in altre parole, la santificazione del mese non dipende dall'esistenza del Beit HaMikdash. C'erano periodi nella nostra storia in cui non c'era il Beit HaMikdash, ma c'era il Sinedrio e si santificava il mese in questa maniera, non come facciamo oggi. Quando c'era il Beit HaMikdash, Yotzin Af Al Iyar, si usciva sì anche per il mese di Iyar. Perché non basta contare l'Omer per sapere quando è Shavuot, perché abbiamo bisogno anche per il mese di Iyar, perché effettivamente non è legato all'Omer e non è legato il motivo a Shavuot, è Mipnei Pesach Katan, Pesach Sheni, è per comunicare e sapere bene quando sarà il 14 di Iyar, che è il giorno del Pesach Sheni, il giorno di recupero. Chi non ha potuto, per motivi di distanza o di impurità, partecipare al Korban Pesach nel giorno della vigilia di Pesach stesso, quindi il 14 di Nisan, la Torah dice che avrà la possibilità di fare il Korban Pesach nel 14 di Iyar, 30 giorni dopo. Quindi, se esiste questa possibilità, e cioè c'è il Beit HaMikdash, allora bisogna comunicarlo perché si possa, chi ha bisogno di venire, sappia quando venire. Ora, c'è una nota interessante che alcuni commentatori fanno presente. La Mishnah ha iniziato dicendo 6 mesi nell'anno si escono i shluchim dal Beit Din per comunicare. Se abbiamo letto quest'ultima riga, diventano 7 mesi quando c'era il Beit HaMikdash. Alcuni commentatori fanno presente che non è così. Sono sempre 6, perché quando c'è il Beit HaMikdash non c'è il digiuno di Tisha B'Av. Ah, giusto. Allora di conseguenza non devono uscire per Av, e allora sono sempre 6. Questo secondo alcuni commentatori. Qui concludiamo e poi, se Dio vuole, la prossima volta vedremo altri aspetti, alcuni dei quali sono stati sollevati da voi oggi, ma che affronteremo nella prossima e nelle successive Mishnayot.